attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Hola, hola. Ciao. Attenzione binario 10 K. Attenzione binario 10 K. Hola. Attenzione binario 10 K. Hola. Attenzione binario 10. Attenzione 10 K. C'è qualcuno qua in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cambio. CQ 10, c'è qualcuno qua? Avanti, chi è? Natale. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao a te, buonasera. Mi ascolto, una domanda, mi sono soffiato. Dicasi altrettanto per il sottoscritto. Vabbè, io sinceramente, senza togliere niente a nessuno, però non sono sportivo maniacale, quindi non mi interessa. E cappa, stavano parlando anche di radio. Ah sì, sì, già ho sentito. Ma io, vabbè, no, non mi interessa l'articolo, anche perché i prezzi sono le stelle, quindi è un casotto. Oggi ti devo lasciare che devo fare una cosa, poi riprendo fra un po'. Io tranquillo, sono qua in Corrix, faccio con la computer. Hola chicos, attenzione binario 10 K. E gli ha dato il treno. Eia, buonasera. E buonasera anche a voi. Ma Cristian, ciao Antonio. Ehi, ciao a te. E beh Cristian, dove sei che sei forte? In giro a Sassari. Amato dei mari, ma in zona sì, se non per 30. No, non sono in zona, sono io a Bugino e basta. Dov'è sei il bassino, Cri? Non so, sono io a Bugino, mezzo ai palazzi, scusatemi, No, qua sei fortissimo, sei. Ma domani metto le vitamine sopra il sedile, vai. Fai bene, sei in più dalle a me, Grappa, vabbè, mia Bugino è vicino a me. Io non credo che arrivo così, non credo che mi arrivi così in forte. Ah, sono piccolino, piccolino io. Piccolino! Quando sei distante, ma quando sei vicino sei forte. Cosa vuoi? Che vuoi che la zedo? Diglielo, tiro. Lui, non ce n'è forte no oggi. Tu da quando un amico ha scoperto la polvere? E vabbè che c'è la questione. E così è. Sì, no, fuochi, era zedo, non ero. E allora, sì, il procurato ne regna. Per niente, niente di niente. E domani ne abbiamo in giro. Quindi ne avrò un 3 o 4 a casa di pedale, non lo so, un 5 sì, non ho trovato un altro pedale a casa. Mannaggia, Dai, domani chiedo, dai, che devo fare piacere a un amico, se ne ha, te lo dico, dai. Chiedi che sono quasi a secco. No, se ne ha te lo dico subito, domani stesso. Sicuramente non è prendi il freddo. Fatta l'immagine. Ho finito tutto quanto, adesso la cantiere. Domani non ce la faccio perché devo scendere prima al produttore, quindi devo salire col Dilli. Dopo domani se ce la faccio vado con la macchina mia, me ne carico un po', se no sarò secco. Poco ce n'è di legno. In cantiere già c'è. Una ferragannita. Ma devo far combaciare la macchina anziché il furgone, capito? Perché solitamente scendo prima a Porto Torre, spendo il furgone e poi salto. Se invece vado direttamente con la macchina mia, insomma, sono più vicino anche, quindi carico e scarico qua a casa. Quello che si può fare. Tu pensa che in macchina mia, quando ho abbassato i sedili dietro, mi ha caricato quasi 7 quintali. A voglia. Avevo il carrello però anche attaccato. Avevo circa 4 quintali nel carrello e la rimanenza in macchina. Grazie. Se ne hai, portatela. Diavolo, perché non è che ce ne sia molto, Se ne hai, portatela, almeno. Non so, quanto è il quintale? No, vabbè, io parlo di legna fatta dal vetro ferro, Ho capito. Qualche albero? Sì, qualche alberi. Allora già per me. C'è la pinetta da tagliare anche. E dove? Di qua da Mola, la tagliamo. Ci ha trovato il permesso, già se n'è andato. Ah, grazie pure, minimo. E frate, come sta? sentito su WhatsApp l'altro giorno, perché io ho avuto il padrino di crisi, ma non stava bene. Vabbè, qualche giorno, va. Ho sentito la settimana scorsa. Un po' di influenza aveva, ma niente di che. Andava. Per il resto non te lo so dire. Bombolino, ripeti il microfonino. Ma adesso dove sei? Guarda, sono in Gabugino. Ma sei fermo o stai camminando? No, sono fermo. Riesci a guardare il segnale? Vuoi trovare il segnale? Fa un passaggio. Prova, 1, 2, 3, prova. Qui sei 9:30 al New Smith, poi. Allora non accendo neanche l'altro. Pure tu sei morti in hobby, Signore di bombolino, fidati, quello è uguale identico. La mega più forte però. Ascolta, se per la tua vado mio un attimino, No, volevo provare un amplificatore, ma è inutile che lo accendo. Cioè, non c'è più svita, è inutile. No, però quando metto il Mubico in macchina, poi aspetta un pochettino. Il Mubico ti dice bene quando arrivi. Ma vuoi che te addrizzichi su gozo? No, vabbè, a parte che devo sentire Antonio, che mi deve dare quello con la fagliette nero che devo dare. Qual è il tipo Saturn? Quello piccolino, tipo un pacchetto di sigarette. Ah, capito, tipo qualcosa io in macchina, dai. Oh, nero, poi led rossi. Ho capito, cosa stai dicendo. Stai facendo l'amplificatore, ti faccio fare io. Te lo incollo con lo Smith. Però poi collare il mio, perché è digitale, caro. Ah, e allora no. Ti è andata male, se avevi il Mubico non me lo incollavi, ma qui non me lo incolli. Sì. E allora, io. Un giorno qualcuno era in zona, abbiamo incollato l'ago. Non sono io allora, va tranquillo. C'è un amplificatore attaccato. A me vedi, adesso io metto il Mubico in macchina, usa che l'altro, dai. Grazie, cos'è quello? Questo è Midland. Ok, ti volevo chiedere, non è che per caso hai un motorino che praticamente con un tasto, che ne so, tira una leva e con l'altra invece la riporta a posto? No, quel motore non ne ho. Devo fare una cosa per aprire e chiudere una valvola, capito? Con la motorina però. Ho capito cos'è, ho capito, ma non è di quelle lì. Tipo un motore di avvitatore, dai, così vuoi fare? No, puoi aprire una sala cinesca, però la sala cinesca praticamente la apri tirando e poi la chiudi respingendo. Ho capito, sto dicendo, no, non è di quelli. Ma guarda, un po' di legna ce l'ha a casa, se c'è gente, ce l'ho me. Che cosa? Aspetta che c'è gente. Non sento, stiamo parlando in verticale, aspetta. Cappa, mamma mia, ragazzi, un gioco vecchio, Cruia, mamma mia. Perché mi sta sottratta al forno, ma ci mangiando. Cuoricino, guarda, piccolino lui. Aspetta, dimmi, qui, che non sentivo. Un po' di legna ce l'ho a casa di allora, pedone, se lo volete, vieni, te la prendi domani. No, è stato da te cosa, quando facciamo come la volta scorsa, se riusciamo a trovare qualcuno che è di buon cuore a tagliare. Ma tanto a me non mi serve, qua tranquillo. Ma la devo tagliare, in macchina non ci sta, capito? Io esco tardi, devo trovare un momento, un giorno libero per farlo. Allora te la conservo, dai, capito, dai. Te la conservo e un sabato viene te la prendi. Un sabato mattina, secondo me già ci mettiamo d'accordo e la tagliamo direttamente. La tagli direttamente, tanto c'è la motosega anche lì disponibile, non c'è problemi a casa, c'ho tutto. Sì, ce l'ho anche io. Non manca niente a casa a me, manca solo una cosa. Da pagarmi un buffo di... un bel buffo. Noi quelli ce l'abbiamo tutti. Poi ti spiego in verticale, vai che è meglio. Meglio. Trattasi di pozzo e serbatoio, pompa e serbatoio. Rotta a capodanno. La pompa deve essere rotta il 30 dicembre, una figata. Sì. Succede anche nei membri di famiglia, guarda. Ma tu come ci vuoi che Fabro bravo? Che cosa? Conosci qualcuno che mi può fare un tappo in, in ferro, può mettere in un posto? Un tappo? Eia, un tappo da 34 centimetri per 15 o 20. Posso chiedere, a cosa ti serve? Per tappare il posto di casa mia, non per altro. Il posto? A fare il raggio. Ma da un po', se riesco ti procuro un chiusino. No, perché ho messo la pompa, ho messo un tubo d'acciaio, perché c'era tutto quanto il, la membrana marcia del coso, c'era intatta, poi ho fatto un tappo per sigillare il posto per gli animali. Ho capito. Vedete, 34 per alto o meno un 15-20 più o meno. Vedo un po' se riesco a trovarlo, la cantiera, ma ho i miei dubbi, ma se riesco, trovo che i chiusini che ci sono 70x70. No, sono enormi, per quello sono enormi che due chiusini. Se prendono quelli 40x40 magari ci può anche andare bene. No, no, non c'è lo spazio purtroppo. Boh, non riesco, no, solo. Dai, sto spostando un attimino, va. E neanche io, dai, mi devo spostare, che devo fare carica, dai, devo mollare. Grappa, grappa. Boh, è uscito suo. E da un grappa, bomba, fa fuoco, non mi sono cucribato, ma niente. Andà bene, ciao, ciao, dopo. Come mai? Io che pensi di me? Aiuto! Come mai non c'è nessuno a quest'ora? Aiuto! Uscite fuori! Avanti, chi è? Io! Cappa! Buonasera! Buonasera, come non c'è nessuno ancora? C'è ancora? Io ho acceso adesso, come mai non c'è nessuno? Sono entrati. Vabbè, mi sono finiti tutti a mangiare, uscire. E allora ho mangiato da ghizzo, ma cazzo, ho mangiato troppo. Sono gribato, ti giuro, c'è una pesantezza. Cazzo. Però è troppo meglio, devo stare attento. Magna, magna, magna, magna. Fuori da dieta, fuori da dieta. Ehi. Avanti Cristian! La dieta sia, me la faccio a fuoco! Cristian, buonasera! Buonasera a tutti! Io ce lo sento, un attimo, che è successo? Sono sulla Woody Woody in giro in macchina, caro! È per questo! C'è movimento in macchina, ho capito! Sono in zona aperta nella Woody Woody, proprio in zona Woody Woody! Zona Woody Woody, ho capito, già ti ascolto, ti tiro fuori! Siamo fuori di antenna a casa, che non devo fare fatica a sentirti. Lasciando le tue parti questi giorni, va a trovarti. Ecco qua, l'ho perso. Cosa dici tanto? Antonio! Bombolino! Stavo accendendo la stufa, scusate! Stavo accendendo la stufa! Io c'è Cristian, forse più vicino a te lo senti. Io l'ho perso. Cappa, avanti Cristian! Eia! Eia, dove sei arrivato? Adesso mi sei arrivato forte. Ma sono alla stazione di Pisa adesso. Cappa, no, già va bene. Cioè, io sono lungo 5 watt, sto lavorando, ma 5 watt è un'antenna di gomma. E va arrivi 9:20 a Santa Maria di Pisa. Eia, dai. Arrivi anche qua, ecco. Arrivi anche qua. Ma già arrivo un altro, un metro, cosa pretendi? Però qua già arrivi, dai. Cos'è tanto che lo faccio? Ha detto che c'è un'antenna che è alto un metro, cosa pretendo, ha detto. E ogni tanto lo sento, ogni tanto lo sparisce. E vabbè, però già va bene. C'è l'antenna alta un metro. Cappa, cappa. Va bene. Ho acceso un po' la stufa, cazzo, per freddo in occhi. Almeno 10 minuti, almeno accendo. Mi sale il caldo. Sopra, l'accesa giù. E qua sale il caldo fuori, capito? Perché fa così. Ma la casa tua è su due piani? Sì, c'ho la camera a letto e non so palco. Ah, ho capito. capito, è una santa con un suo palco, così è. Quanto l'hai fatta a Mursia? È bello, è bello il suo palco, ma è alto? È alto, sì. Il trago mi ha detto che abiti a Sassari Vecchio, le case di Sassari Vecchio sono alte, così è. Già c'è lo spazio per farti il suo palco? No, l'ha fatto chi mi ha dato la casa, già. Ma è fatto bene, però c'è la scala che sale, è fatto veramente bene. Bravo, bravo, bravo. Vabbè, me lo immagino. Cazzo di bravi d'acciaio, insomma, c'è in corso. Andiamo, vai, andiamo. Luca! Ehi, altro, dai, ci sentiamo dopo la casa. Cappa, ok. Ehi, dove sei arrivato tu, Cristian? Sono in giro a Sant'Arnaldo. Cappa, no, sempre bene mi arrivi. Vabbè, onestamente, sono fatto venire in riserva, non sono scipito qualunque. Cappa, dove sei fa riserva, Non sono io, da pure me, in macchina, Che qua? Cosa hai detto? Oggi? Che stavo arrivando anche qua, ho sentito via Sant'Orsola. Cazzola, Ma no, qua già arriva bene, non c'è problema. Ma qui in genere va benissimo, ma no, non c'è problemi. In genere, vieni avanti. Ehi, Acri, già ti sento. Perché la radio arriva, ma non mi muovo neanche lo smitter, capito? Non sto a tirarti fuori a malapena, capito? Ma tu c'hai i picchi da 4 a 9:10, vai tranquillo. Ma se non riesco a sentirti io è un problema, capite? Io devo sentire lo stesso, fa, aspetta, ti cambio l'antenna sul tetto. Va bene, ma metti la forza antenna sul tetto. No, mi sa che metto la forza vera sulla capota, tu. Ma tu abiti a Sassari o a Platamona? Io abito a metà strada, penso sia a Platamona, a metà strada. Non ho capito. Abito a metà strada, Sassari e Platamona. C'è presente dove c'è Aspir Sarda, sulla Budibudi? Dove c'è Aspir Sarda, sì, più o meno, sulla Budibudi quindi? Esatto, io abito lì vicino, guarda. Ho capito. Una parte da lì proprio, sarà un chilometro e mezzo all'interno del Viottoli. Cristo. Oh, buonasera anche a lei. Sì, Cristo. Io in giro. Ah, in macchina, sì, ma qua in zona? Mi sa di sì, nella tua zona. E se fa una scala? Ma nella tua zona vicino a te proprio, sono a Sant'Orsola. Ah, io non sono al monte, sono alla Pedocce. Lo so, infatti. E c'è da segnare anche. Ah, arrivo bene allora, sì, io sono al Bibassi. Sì, se va attaccato ci ti vedi. E chi c'è, Antonio? Cappa! Vabbè, là, a frappi. Già ti voglio citare, rimani già. Beh, è successo un casino, te lo racconto, là. Ma non sarà quello che ho letto, no? E ti racconto, Antonio, là, ci sentiamo dopo, c'è sopra del trap. Ehi, vai, da, ci sentiamo un po'. C'è appena fai prima? Non è vicino, no. Ma che vero, perché sono vicino a Sassari io, e come no? Cappa, che da lì comunque mi arrivi forte tu, Vabbè, la casa mia, dalla rotatoria in linea d'aria sono 200 metri, in linea d'aria, dalla rotatoria. La casa mia è alla fine del Viottolo, sono 1,5 km. Da dove? Da Sant'Orsola? Allora, visto la Budibudi, visto che lui la rotazione che c'è dopo il Bagraziella, io da lì la vedo, sono 200 metri da casa mia, linea d'aria, invece il Viottolo è 1,5 km. Ma prima adesso non sei a casa, non sei arrivato a casa? No, sono ancora a Sant'Orsola. Ma hai un microfono amplificato? Cappa. È per quello. L'aria arriva bene. Break, avanti il break. Ehi, ciao, buonasera Antonello da questa, Porto Torres. Sì, buonasera Antonello. Sì, Antonello, amico mio di Porto Torres. Piacere, lo vedi, Porto Torres perché? No, però a me non mi rubichi, ogni volta che utilizziamo sul dolce non mi rispondi mai, non ti dovrei rispondere. No, a me non fare queste storie qua, l'ho detto ieri a Emiliano, gli ho detto io, cioè purtroppo gli alusei come te, va giù, mille cose da va, a tempo uso per zero, quando accendo non c'è nessuno, e poi mi metto a lavorare, non è che sto qua presso alla radio, eccetera, molte volte accendo, non c'è nessuno, lo lascio acceso su altre frequenze, eccetera, tutto lì, oggi no, no, io non voglio pavità. Guarda, adesso infatti ieri gli ho detto, guarda, adesso lo accendo, intanto c'è sera mollo prima, cazzo cubiente, predannato, eccetera, ho finito due cosette che c'avevo un po', insomma, un po' importanti, ho detto, beh, e se avessi qualcuno, 10 minuti mi trattengo, tutto lì. Ho chiamato mille volte, ho chiamato bellino, amore, di tutto te ne ho detto, mica, ma non qua che mi ha inteso. Amica, sapere una cosa del genere mi avrei fatto che crescere i ricci, dai, comunque saluti anche gli altri amici. Cappa cappa, e mi sono in compagnia di Gino, che lo sai, di Cristian che imbarrava mobile. Cappa. Va bene, dai, mi prendi a te. Ehi, ciao Anto, ciao Cristian. Attore, lo senti a Cristian? Sì, prova a vedere. Sono in mezzo alla traffica, in mezzo agli alberi. No, no, no, tranquillo, ti sento abbastanza pure. Guarda, lascia perdere Eugenio perché è molto più in alto di me, però io sono molto più in basso di te. Sono 30 metri più basso di te, comunque già. No, no, dai, scherzando. Già ti sento, dai, arrivi qua a Santiago Sì, comunque ti sento abbastanza bene. Ma morire meglio tu che Eugenio, di segnale, sai? Sì, già lo credo. Già lo credo. Cosa vuol dire già lo credo, Eugenio? Poi che siamo qua vedendo, ti dico una matessi cosa, amico. Se no, mi non cominciamo. Porca miseria, dai, gli hai fatto anche la modifica, l'hai anche truccato qualcosa lì? No, giù do caduta, no. La posizione, è la posizione che mi manca a me, è la posizione. Ma poi la differenza a me, a te arriva a sé, a me manco lo smetto e Mario mi muove. Figurati. Ma stai scherzando, io non mi divussi, dai, allora me ne fai ragazza proprio male, te lo giuro, voi siete, ti mando anche una foto, a me mi arriva a sé, io lo sento bene, tranquillo. Anche Antonio mi arriva benissimo qua, no, senza non voglio, nessun problema. Adesso mi senti meglio pure, vai. Adesso ti sento, ma no, perlomeno io, a me non mi muove neanche lo smitter. Antonello è alto, è una zona alta, bella, è tutta aperta. È per quello che ha una buona ricezione lui. Adesso mi siete più alto, sono pieno, quindi pure tranquillo, senza alberi attorno. No, tu dimmi a Eugenio che invece lui non sa cosa ha fatto, ha preso l'antenna e se l'ha nascosta, il motivo è solo quello lì, perché se lui metterà un'antenna a serie, vedrai che arriva uguale a me, non ci credo, perché noi in linea d'aria di Eugenio siamo a 500 metri. No, vicino allora, dai. E certo che siamo vicino, so che magari abbiamo una differenza di antenna, io sono manco, ma lui ne ha un'altra e sicuramente magari riceve meno di me, tutto lì, secondo me è così, non può essere altro. Però manca non la manco, ma è gente da fare. Ma avevi anche la Grazioli, mi sembra, no? Sì, sì, non so, però sto parlando con la Mantova adesso, capito? Poi posso anche farmi dopo la cambio e parlo anche con l'altra. Perché era tanto mica non lo usavo. Ti ricordi l'ultima volta abbiamo parlato noi, quando è quest'estate, l'ultima volta mi sono sentito con te, poi io non l'ho più usato, più nulla, li lascio accesi gli apparecchi perché vogliono lasciati accesi, su altre frequenze rimangono accesi. Però no, non ci parlo, non ci parlo perché poi non ce la faccio col tempo, sono sempre burrendo, caballastro, il motivo è solo quello e non perché. E quindi niente, infatti ieri poi stavo parlando con Emiliano, gli ho detto cazzo, ma se non faccio tempo di nulla, più a tempo uso a 0 a 0 a 0, infatti gli ho detto guarda, domani se non finisco tardi, perché di solito finisco tardi, è proprio tardi e non voglio rompere scatole a nessuno, ho detto una chiacchierata mezz'ora entro, dai. Ah, qua comunque c'è più di 9 da me, fanno scala, figurati. Ma voi vi ho detto, le vostre antenne si vedono? No, no, è una progetto, hai detto cosa devi fare tu, metti una cosa più seria e tu vedrai che come ti dico io, tu quando proverai un'antenna di queste qua la metti in radio diversamente, a parte che ti aumenta il segnale sia in trasmissione che in recezione, e vedi come ti dico io, purtroppo succede questa cosa qua, e la differenza noi ce l'abbiamo solo con l'antenna. Se tu mi dici sì, sono più basso di te, ma quanto vuoi essere più basso di me? E siamo lì, siamo, non è che siamo a chilometri, noi la SAS, non siamo a chilometri, e anche se tu sei dalla parte opposta a mia, ma in linea d'aria noi, io la testa ho a 500 metri, non penso che sia di più. Sì, sì, però tu l'antenna c'è più alta della mia, capito? La tua antenna risulta più alta della mia, perché io essendo leggermente più basso di te, dove finisce la mia antenna inizia la tua, capito? Quindi non è male che sia così. Ma a me è purgata, vedi, anche lì senza impegno. Dovevo venire mi vicino a casa tua, che dovevo accompagnare una persona, ieri poi invece si è fatto dare un passaggio e sono arrangiati. No, ti volevo chiamare, la curiosità è solo da ancora di vedere la differenza, intanto ho un chilometro così più o meno, più o meno lo vedo, perché nemmeno mi dice la stessa cosa, tu sei cazzo 70 metri più alto di me, ma non può essere 70 metri, mica 70 metri sono un bemmi, cioè praticamente io sono un grattacielo più alto di voi, dai, aiuto. No, 70 metri, guarda, il mio viale è 60 metri, il mio viale per entrare in casa, non vedo talità, però probabile sì che sia una cosa del genere, per Emiliano, io di meno sicuramente, però per Emiliano probabile. Comunque passa, non c'è problema, mi fa un colpo di telefono, giù da casa. Guarda che ti hanno salutato, Antonetti. Sì, di cosa si tratta? No, ragazzi, io stavo da cenare, ci sentiamo dopo se ci siete, ciao. Ciao. Chiaro, qualcuno ti ha salutato, non so chi è. No, non ho sentito, tanto chi era? Possibile che mi parli sopra Antonello, non ce la faranno mai. Vabbè, io sono in una posizione diversa, l'ho sentito. Magari probabile qualcuno da Sassari. Sicuramente. Comunque qua c'è il più. Mi arrivi molto forte tu, qua a casa. No, ma anche tu, sai quanto mi arrivi a me? A me mi arrivi 9,5 con Radio 5, e altro da giù. No, che tu arrivi, se arrivi sempre me e non venite da qua, io ti sento bene, tranquillo. Ah, è che tu mi arrivi, la stessa segnale, cioè. Posso andarmi, non è ancora pronto, sono ancora qua. Gappa! Dove sei nella Budi tu? Adesso si è abbassato il segnale, 4. Anche qua è basso, Giorgini, guarda bene se lo senti. No, non lo sentono. Ecco, è quello che ti voglio dire. Se lui non lo sente è un problema di antenna. Vai tranquillo. Poi Eugenio, sai cosa c'è? Che quando c'ha 10 minuti di tempo, c'ha quel cacciavite e metta, quella è che sempre i vitelli. Ah, così è. Eugenio, ma è meglio le tese, vai. Ma io fagli una passa, ieri gli ho detto a vedere se devo mandare qualcuno a casa sua col motocarro e si vende tutto. Una garata in mansardo Emiliano. Ma a lungo un filo ce lo porta su, io giù, io non so neanche com'è composta la situazione, però se tu metti un filo più lungo, ti allunghi, che cazzo te ne affutti, ti rimane busato dentro casa e non c'è la te fare, scusa, che è un problema. Cosa vuol dire anche lui? Vuol dire che facciamo una colletta e che lo compriamo questo benedetto filo. Lì alla sua stanzina con la scrivania. E che deve fare le scale, capito? Le vediamo già, sai com'è. Sì, ma ho detto, giusto, se uno non ha gana, cosa succede? No, veramente come ti la data ne va, vega la via in cucina che c'è l'altro per dire, no, ne avevi uno attaccato dove dormivi e quindi si capitava uno e con l'altro, se uno proprio a gana ne va su una ragionata, no, non è che va su quel giorno, inizia la bonita maledetta, però se allunghi un cavo e lo fai scendere e te lo metti giù, non c'è la tefala, insomma, va a comprendersi. Poi gli metti un commutatore e te lo passi su. Tutto lì. Certo, ma prima era altri tempi, cioè prima c'era anche la voglia di modulare, adesso c'è solo il canale 10 e non c'è nessun altro. E quello c'ha ragione. Sì, ma sicuramente io, per carità, non sto dicendo nulla. Io quello che voglio dire è che molte volte capita che uno dice, vieni in un luogo, dice, vabbè, non vedo capisamini, ma andare a farsi, venimo domani, e oramai. A questo punto, grazie, mi allungo un filo e vi lascio, ecco, tutto lì. Se c'ho voglia di parlare, lo prendo e lo metto in macchina, uno che ha voglia di chiacchierare, capito? Io ho visto che tu ce l'hai, nel camper ce l'hai sempre tu. Ecco, uno c'ha voglia di parlare, ce l'hai, basta. Infatti, ma la verità dovevo sempre prenderlo, perché io ne ho uno nuovo, ce l'ho 28 di nuovo, ancora da andare a cazzo, la mia. Una volta solo che ci si va, vi atteso, ma provarlo, ha detto, mi sa se funziona, ti avevo imparato, mai provato. E sto piglio cazzo una calamita, la bombinata in giri, quando capita che esco, che magari so che giro di gusto, sì, no, giusto, ma per scambiare due parole ce l'hai, tutto lì, come si faceva una volta, lo metto io, lo mette quello, lo mette quell'altro e la cosa si riprende, è normale, tu non hai, chi d'altro non ha, chi d'altro così, chi non ti intende, chi non lo piglia e la cosa andrà a morire oggi, è normale, poi io per rimane nel canale. Lo so, ma piano piano qualcuno nuovo già sta entrando, vai, piano piano. Molti non sanno neanche cosa sia il baracchino, capito? Le nuove generazioni sono troppo prese dal giuare. No, a me se mi vuole di giuare tra uno e l'altro, ma contento di chiuso, perché qua ci parlo, ci sono grazie cose, ti accade la legge, a parte che non me la fotte nulla, e a magnatini di pensamenti butta e passa. Lì c'è un'altra cosa, no, non ci sto, se ti piace aspetta, se qui uno non gli piace, non deve stare lì a battere e a ribattere, a me sinceramente non me ne frega niente, io molte volte dico, cioè, provalo a vedere, prima di dire non mi piace, provalo, poi se non ti piace, ok, mi salti, invece ti canti macchini con chissà cosa, vabbè, ma a me non mi piace, ma a me che sto coso, ho capito, invece più bello è sattini, tutta cantera lì, messa gente, vendi, perché magari non vai credito e lo mandi in WhatsApp, oppure servi sul cazzo dell'oculare, magnatini dai media, la legge, eccetera, cioè a questo punto mi ha contento, fammi una ragionata così, ognuno rimane a casa sua, eccetera. Scambiamo quattro opinioni, ognuno dice la sua, andrà bene, perfetto. Lo so, anch'io sono della tua stessa idea, però non siamo tutti così. Tanto riprendi. Ciao, ma ne decidi che c'è applicazione, veda cosa, abbia. Chi su CBTalk, tutti quanti che applicazione così. A me la verità non mi piace, a me mi piace Binocchi. Non c'è soddisfazione la verità, con chissà cosa. Cioè, grazie, arrivo all'altra parte, arrivo qua, arrivo là, mi chiccio un pulsante tutto a posto, grazie. Così va buon burulaino. Vedi, arrivi tramite la radio, tramite l'antenna in certi posti. Posso salutare un fratello carissimo di Porto Torres, cioè poi chiudo e vado a mangiare. Ciao Eugenio, vai. Soprattutto al carissimo Antonello e a te Antonio. Ciao Antonello, buonasera. Ciao Cla, ciao. Mi ero da tanto, mi stavo parlando con Eugenio, ti ero da tanto che non la scendevo più, perché no, ma non perché non si trova, faccio problemi con lavoro e cose, sono sempre impegnato e a tempo sono proprio a zero completamente e molte volte qua ti vuoi dire la verità, lo lascio acceso quando non c'è nessuno, lo lascio acceso su altre cose, sempre quella cosa là e basta. Infatti poi ieri che stavo parlando con Emiliano gli ho detto, cazzo, bisogna che la sera mi mollo ancora prima, che cazzo intanto no, vai e apri a freddo e solo a sentirti male, basta, che cazzo ti chiedono mille sempre le solite cose, mille cortesie, mille che d'altro, poi si fa tardi e non va, non è più gana di nuda, eccetera, però dai, cioè già mi fa, a me mi piace sempre, una giornata una cosa, a parte che fa di burro, dai, oltretutto. E si conferma, Antonè, ma infatti sei assente totalmente, io lo so, ti conosco una vita, quindi so che il tuo lavoro è un po' particolare, la clientela che hai è molto esigente, quindi ti stanno condannando praticamente, e tu non sai mai dire di no, sei sempre impegnato. Molto bene, vabbè, comunque fatti intendere, noi siamo sempre qua sul canale 10. Ti abbraccio calorosamente, buon inizio d'anno e ci accoppiamo alle prossime. Un saluto anche a Eugenio, Antonio e a chiunque c'è qua sul canale 10. Ciao Antonè, mi ha fatto piacere di ascoltarti, ciao ciao. Grazie, Cla, anche a me, figurati. No, già ci sentiamo comunque, dai, magari adesso vedo di una gatta per forza un modo di no. Lo sai come te molte volte non ci si muove nell'anima e veni mari. Quell'ora lì da un'ora diventano due, diventano tre, eccetera. Però dai, credimi che mi so cuscio offendi, non si può stare solo così, a chi ha rovinato la salute e basta. Vieni a un azzurro, è cose che davvero si vuole imparare, soprattutto di chi ci obbedisce, che bisogna stare pure attenti, a non cagli troppo in basso, sennò da voi veni mari pure a fisattini. Comunque grazie, già ci sentiamo qua. Ciao Claudio, buonasera anche a te. Io senti un bimbo. Ma te l'hai detto che ho voluto un Mercedes, sì. Ah, vero? Cosa hai preso? Ho preso un BMW. Ma guarda, se ti devo dire, forse Mercedes è una marcia in più, occhio al BMW, mi ci ha ambitato tutti che cosa, che il BMW ha da voi, al momento che si crea un problema, so guai, tienilo conto. Vabbè, nuovo, vi raggio un mese e mezzo. Ho fatto nuovo, un mese e mezzo ce l'ho. Ah, è nuovo, sei nuovo, vabbè. Però ricordati, italiani, non dar rete, oggi guai, io ti do solo un consiglio, a me non me ne frega niente, cioè vai onde vuoi, ma italiani, ammettete una cosa, quando arriva a chilometri, lampade di luce e ciambaro, a chi sa macchina in giro, purtroppo da qui diventa rugnosa, tutte le macchine adesso, non sono più come quelle di prima, che uno tarda i cambi, eccetera, e si da fute le balle. Oggi quando vanno un crollo, questi motori nuovi sono terribili, che cazzo, fa un danno della Madonna. Ragazzi, io intanto non me la seguo sempre l'auto Prestige, così quando vado a Versailles la conoscono e mi vanno anche di più. Va bene, dai, io adesso è pronto a vaccinare, ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao e buona cena a tutti, ciao. Ciao ciao a tutti, dai. Ciao ciao, ce la risentiamo. A ti bloccano i venchi, gli auguri tagliante. Ciao Antonio e ciao Cristian, se mi ascolti ancora, ciao. Mi ascolto abbastanza bene, dai, ciao a tutti, dai, io che tutti e mi vado tutto quanto a cenare. E ya, ciao Cristian, alle prossime. Stavo piacendo con la tua, che devo fare un po' di commissioni anche, dai. Ah, Pacli, la risentiamo. Vabbè, hai capito come Antonia, di questi tempi è tutto quanto un casino, intanto non venite di disordini. Porco Giuda, e più se mandendi e peggio sarà la vita situazione, noi non usciamo più. Si è creato purtroppo una cosa particolare, una cosa brutta, vedi, va più su andando sarà sempre più casino, non c'è un cazzo da fare. Ma comunque per burla che cosa di strano, ma che cosa che non mi convince, troppo casino, beh. Allora, cosa, lo sai cos'è? Qua te la dico in due parole, anche se è brutta da dirsi, perché è così. Purtroppo loro vogliono dimezzare la popolazione, hai capito? Con questo accidente del vaccino tu vedrai quanto ne faranno fuori. È così, perché tu non mi puoi obbligare. Ma cosa un attimino, ma se io so che mi ti puoi imbregare pure a me. Ma comprendi, noi parliamo al di fuori di quella cosa lì. Lui a tutti i costi ti vuole vaccinare, ma tu a chi mi vuoi vaccinare altri costi? Perché non avete messo un freno? Perché quest'estate, cazzo, vi dà due gambe a bici a tutti e avanti d'ora sarà? È una cosa, io sono tutto che mi sto coprendo con tutti. E dico, c'è chi udono le mani dritte, no, non è così. E io ti dico di sì, ti rimangono vaccinati, torra, te lo piglino a te, sicuro sei vaccinato. Quindi alla fine, cosa cazzo dovete fare? Sarà, non è il tuo cazzo continente a casa sua. E noi siamo in un'isola, no, che amicati vedi, amicati bascai, amicati. Invece no, allora, con questa cosa e torna siamo d'ora a butti a capo, non basta né i mandi pure i minori, e che cazzo, e basta con questa telenovella, no? Va bene chi? Oia, intesa e diviso sotto, per carità. Ma io comunque non vi credo, cioè non vi credo nemmeno, secondo me. nome di che c'è un periodo, tutti quanti lo sappiamo che ti pigli l'influenza, fai forza, e secondo me soffrendi bassa l'influenza fa Covid, niente che andrà a fare lo tampone, che, cioè va via c'è l'influenza, che adesso chi c'è pure umana, ed era solo l'influenza e basta, è passato a Covid. Secondo me per roba di dottorini è roba che insomma niente, da retto che è una cosa paurosa. Sai quanto prende un ospedale ogni persona ricoverata di Covid? Te lo dico io, prende 9.000 euro a persona e ti aggiudico tutto. Ecco a chi soffende in bassa tutti quanti, ma Covid, buvi di influenza di così. A chi un tampone che fai in farmacia non è attendibile, quindi hai origini, se è positivo, già in giri, ti abili ancora, ti altreggi, ti vai e ti incasini nella la vita. Guai, già alla fine in epidari e dici la prima cosa di dire di sì, non è che ti manda i poni di inghili perché per loro sono 9.000 euro a persona e tu è tutto. Per un giro di dinar che è una cosa paurosa, secondo me la dovrebbero finire un po', perché no, non è possibile appartenerebbero la gente, cioè il governo e prende roba sporca e prende duro. Se tu hai notato, sono tenuti tutti i sussidi, sono tranquilli, sono quindi brave, non ti sono mica di nulla. Però devi fare un vaccino e devi fare un vaccino tutte quante le cose. È un casino, è un magna magna, beh. Chissà cosa ammara tutti male in capo qui se. La cosa è sporca, sicuramente è sporca e non ne frega niente. Io se ti mando un poco di cose, vabbè, io non è che so con tanto dico esperto e intelligente, no? Però che pure un po', no, che un telefonino per avermo tutti. Io ti mando un poco di cose e vedi rimani a bocca a bestia, vedi rimani. Purtroppo è così, falsi, bugiardi, che più che sicuramente dei altri. Ma sicuramente che ha un po' di sale in zucca, non è macco. Se ne avvisa che sto prendendo il baruguro, che sto prendendo qualche cosa di poco serio. E quindi, ecco qua. Certo, c'è altro, cazzo, noi non siamo stupidi, ma stiamo scherzando, cioè noi ridiamo, cuffaremo mica se mi stupidi, no? Papa, già non credo via. Un po' di niente, invece, ma cosa stai dicendo? Mi ha detto che ero macco. Qualcuno che ti sente cazzate, sì, cazzate ce lo puoi dire. Ha capito, cazzate se ti senti tu, non io. Io ho capito, come tanti hanno capito, però queste cose non si fanno. E più andiamo e peggio sarà. Sarà titubanto un casino. Capo, queste cose non si fanno, non andrà bene. Ma se non ti fai un vaccino che sei di 4 anni ti muore la multa. E se vai di anni la banca, ti piglia e vai forza. Se non la perente non ti fai di nulla. Però c'è molte restrizioni, non puoi fare nulla. Se invece tu vai anche un soldo in banca, ti piglia e dai chiavi. Ma te ne immaginate tu? Allora, tanto io ho giudito questa cosa all'inizio dell'anno passato, non so così, l'ultima voce che ti siamo intesi, io ero un bel arrabbiato per questa cosa, mi hanno detto che io ho dei numeri, mi hanno detto che non è possibile, mi hanno detto che non era che era Pugliese, mi hanno detto che così, e gli ho detto, vabbè, diamo un tempo di cose, tenete presente che chi si abbassona l'inghiri ha comandato pure in altri lunghi, che sono presenti non il suo massaggio, questo animale che sono animali, arrabbiato, miserabile, no? E ha fatto casino pure in altre nazioni, in Grecia, va di tirare tutta, no? E i lumi che abbiamo operato tante cose hanno bloccato i conti e ti davano solo 2 lire per cosa? Quando tu non pagavi una cosa i conti bloccati ti inficavano, non ti altri di là, ma stai scherzando, ma se io ci sono sbagliato una vita per rimunirmi 2 citi e per farmi una benzione in Santa Basi, non puoi tu assolutamente venire in ghiva a gattare un frittese e pigliarmi lì. E allora soffrendere a me stessi cosa, dici tu ti vaccini e avanti li pigliamo che tu li fai, hai capito? Cioè, ma non è giusto, ma io ma cosa mi devo rivaccinare? E piega a Milo, tu mi devi dare un'inclinazione logica, l'inclinazione mi deve dire da cosa cazzo mi sei, volendo 30 la cruciale, cioè cos'è che cosa avete 30 in ghiva? Ma dimmi cosa fai 30 kg. E poi un'altra cosa, tu mi devi dare una garanzia che qualsiasi cosa che mi succede mi sei tu un responsabile, hai capito? Invece loro ti fanno firmare perché sono esenti da ogni responsabilità. Metti tra le ragioni. Se crepi non è la fottinuta. Cioè, non è giusto, io do capo a mille perché purtroppo tocca travagliare di là, non avremmo, e cosa devo fare pure io? Cioè, se non travaglio sono con paparaccio, cosa mi mangio i piedi della banca da voi? È un bel casino, però non è giusto, cioè non è giusto trattare i bastoni così, no, non andava che c'è cose. Visto che si mette in mezzo, che sto prendendo un po' di naso, prendendo. Dopo c'è roba bacca, non è che mi appigli. Ma a te ti maglioccio che tutti nei mesi tutta canta la dieta, ammazzi di fatica, freddo, acacio, canono, gana, cosa, non cosa. Ma vedi, ti recitti, anche noi in effetti abbiamo recitti per campare. Dici, ogni anno, senza bisassini, mi sono 30-40 mila euro al mese, senza avere un cazzo, chi si visse. Poi mi sono sticati di entrambi sotto banco. Hai capito? Allora, gli aziendi, la regione, chi, tutti quanti, chi si assessore, cosa cazzo, dipendente in chiedi, chi vi so, a conto di chi, si dice che pigliano 1.500 euro al mese. E hanno infatti una legge per aumentarsi lo stipendio e fuori 3.500 euro al mese, tu figura di no. Tu non l'avrai mai a pigliarsi, andare a travagliare sotto un'impresa, sotto una ditta, chi ti ammazzi di fatica, chi fai il tuo, chi ti fai niente, avrai a pigliare 1.200 euro. Chi si cazzo ti magnani come te, hanno una famiglia come te, hanno forse di manco debiti, di canto, vai tu, 3.500 euro. Ma di cosa stiamo parlando qua? Senza tutti i canti da centrati che fai? Allora, a me fa guagna, se tocca cribarmi la china, ogni anno arricchendo le bombole. Non vedevo se non ha giù manco gana di pigiarmi da ruletto mia, che magari sono cadurori e cosa. Che si va a salire, il gatto si pigliano un montone di denaro, si pigliano e vale più di te, vale. Cioè, delinquente, gatto. E chi so che ti so con i veni? E chi lo so con i veni? Cioè, tanto noi, nel piccolo nostro, noi facciamo i sacrifici, lavori a tempo. Tutto, come ti viene a bene, insomma? Che ti senti bene, che ti senti male, chi hai mangiato, chi non hai mangiato? E se sei prendendo il torrente, il veni, il feni. E tu diciamo, che si cazzo, senza muovi un dito, cazzo, se cresci un conto a dismisura. E che lo sai, ma anche di canto di cresci tu conto ogni anno, ma porta di chi da miseria, devi viaggiare a gratis, le spese grandiche erano gratis, sani di figli, boccia non da sé, tu andata gratis, la famiglia è muovendo tanta gratis, ma ti grazie siamo bocci, no? E tutto quanto quello che fai devi pagare, è per se non è gatto, capare una tesi, papù di mangiare, papù di andare avanti. No, veramente un mondo ingiusto e basta. Un mondo ingiusto, no? Non andare mai che c'è cose. Dopo di dinà, loro qui mi dà se quasi devo che dinà andano sempre a finire che si decarraziate, a chi sono decarraziate, so. Gente che non ha fatto mai nulla in vita soia. Eia, poi innanzi alla politica tu più farabutto sei, più baciaccio sei e più cuocato sei. Tu a bella brunetta che ha quante i guglioni dell'aino, tu a bella il casino che fende il sacro, però con una busciacca dell'altri, a chi non aveva la busciacca la tua? Per carità che uomo quello lì, viscido, ga. Non lo posso vedere, manca a balla, ga. Ma Cristi la fai ancora? No, ha detto che era due anni a magna. Grappa. Io cazzo, uomo così viscido, ga. Io non proprio non lo soffro questo. Ma come te lo soffro tutti quanti l'altro, ma carità. Sì, ma tu non sai cos'è che gli anni chiuso? Ah, ma dimmi tu se ti bagli chiuso. Ok, mi c'è il vaccino, ti va vicino Google, va bene, ok? Ah, mi c'è il cazzo vaccino. E poi mi arriva l'altro vaccino. E poi ho dato vaccino a chi se non ti ha detto Green Pass, a chi vivo Super Green Pass, a chi vivo la valla che rigoglie, dicevo. Allora il cazzo di burretta, tu lo sai cos'è fai? So i sugnelli appena che sono pronti, lo buono è subito in pratica. Vuole punire un microchip a ribassone, ma se è vero a bufone, esempio, quindi cazzo vai più ribassare, abbi un cazzo, lì si sanno di sì, non sei, cosa vai, cosa non fai. Sì, ma non motivo, cosa ma che cazzo mai di pulire il tuo coso? che mi crocette non ho fatto la fase di buoni nessuno, tu a me no, non devi sapere di cosa posso qui, io posso ringrazi miei, a non mi pare mi piace, e vai ci mi auguro, vai, cioè, io non me l'avrei fatto mettere. Tanto, ma ascolta un attimo, ma io di quanto mi sono adirato, no? A Giovanni a farlo mi lascerà lì, e più voce va, più voce a Giovanni so che arrivi da rimani. A ti dicono, sì, vabbè, ma anda pure bene così, sì, ma tu cosa cazzo vuoi da me, si può sapere, cosa cazzo vuoi da me? Quindi io non posso andare, non posso tornare, non posso andare per nessun luogo, e tu sai cosa cazzo non comprende, ma non so comprende. Ma di cosa stiamo parlando qua? Dici, ma non manco dici di così, dici, a chi dici che da voi andiamo pure bene, a chi dici di questi due bucciati di documenti appresso, e di da un microchip, Gianni Cassega, non si, sì, ma a me non me ne frega un cazzo, e tu mi dici che regano, e mi dici che è la mamma che travagliava in via Premi, ne ci lavoro. Vabbè, ma hai ragione, vai, cioè, ma stai scherzando, no, io ho una verità. La verità è no, ma che ci così non me l'ho fatto complimenti, cioè non me lo microchip il numero buono, punto. Ah, posso comprendere che cazzo di vaccini così. Vabbè. Però se tu mi dici io ti obbligato il microchip, io non me ne posso buoni. Ma spero che neanche nessuno se ne faccia mettere questa roba. Le devi dire, come ammazza, io faccio quello che voglio, ma cosa vuoi? Tanto, ma è successa la stessa cosa per il vaccino, nessuno le faceva, nessuno le faceva, poi ti obbligano e ti dicono, lì non puoi entrare, lì non puoi andare, lì non lo puoi fare, e succede la stessa cosa. Quindi la regia è stata che è ciugato rugoso. Ma io vabbè, di canto sono arrabbiato, sono buvidinoso, non so se arrabbiato, ma cazzo, ma cosa so che io sono proprio pietoso, brutto figliolo di droga, ma cazzo, ma mi lasci di guidare in padre. Devono creare posti di lavoro, cazzo, e lasciare il cristiano in santa pace, lasciano lavorare, che siamo sicuri, siete indivi, la posizione che siete, e grazie al lavoratore, brutti bastardi, hai capito? Hai già diventati burocrati e non sanno che a pratica chiudessi il gabbo, e si sono vintendi tutti i canti che si cosi, mi sono bucando a pizzo un poco di cosi, e questo non va bene, e chi così, e vivo un green pass, vivo un super green pass, vivo un booster, e chi non può entrare, chi non puoi andare, oh, avete i mesi, non puoi andare a travagliare, ma di cosa vuoi vedere in onda? Ma a me che butti travagli, mi fai travagliare, come ti si partì una voce e poi impedi l'economia e ti mandi tutto quanto in affanculo. Guarda, i nostri nonni hanno lottato, baro travaglio, baro cose, va, se non sono rompendo il cattore. Ah, che non fa ammazzetti, vai. Voi, tutte le macchine che va per in capo. Allora che stessi bassone di Biazzi, che non ribari vero che fa già un gol, ma non facci un vaccino perché poi gli danno il green pass, capito? Si passa il Covid, poi gli danno gli devono dare il green pass, gli devono dare. Cioè, ma niente così maccani voi. Sono tutti una massa di magna magna. Eia, è tutto un casino purtroppo. Ma sei gurrodoni, so. Sì, senza dubbio, ma sei gurrodoni, ben detto. Era questa storia, non riusciamo più purtroppo. Ogni anno ve ne è una. Ogni anno ve ne è una, però caso strano, quando arrivi il CIO, allora i contagi diminuiscono. Anche il signore già ne va in vacanze in Sardegna. Se no non sono contenti, no? Mo sembra che vi si bondia. Beh, sopra Gissu non ve storia, Roga, magna, gli uscia, bucchino, roba buona, no? Soprattutto quando bisogna di questi paesani, si imbuttini, si fate, tante cose. Poi, come si mette appena di tempo di così, subito, e comincia la zona gialla, la zona arancione, il Covid in aumento, e questo, quella e quell'altra, e cominciano i problemi. Chi non è aiutato, l'hanno passato. Arrivando lì CIO. Arrivando lì CIO ha cominciato a diminuire. Ma sono mai dalle cose. Strano. Grigia è. Casino, no, ma io ho sempre detto, vabbè, no, beh, niente da fare, noi vedete, non uscimo, non sarà né fa oggi né fa domani, a chi di solito diventi uno ogni 5 minuti, l'interessante è che ti si fioccani, ad a voi. Ma c'è quello che porta Torres? Sì, ciao, non ho capito, sì. Luca, salutore. Anto, l'unico che arriva più forte di tutti è lui qua, Scatenov. Ciao Luca, sì anche tu qua arrivi, 8 radio 5 buona. 9 e 5 mi arriva lui qua, come io gli arrivo giù a Porro Torres. 9 picchi di positivo, arriva benissimo, sì. Qua in zona là, non dico io da Duomonti, però arriva benissimo, bene bene. È l'unico, gli altri arrivano tutti bassi, forse lui ci ha dato una buona, sicuramente. No, lui è forte qua. No, anche voi arrivate, anche tu Luca, no, arrivate forte, ti dico, Antonio di più però, Antonio mi arriva proprio a bomba, e anche tu però, tu arrivi 8, radio 5, buona, tranquilla, la grande. Capo, Matteo. Ehi, Ari, che sta a fuoco, facciamo entrare il cane. Senti mal di gola, va, fermo di guarire. Casino, colpo d'aria ieri, capitato l'ho tirato poco fa, un casino è successo. Guardate attenti, la geologia è veramente un casino, ma dove esci, andi in giro, la gente fuori dal gambo, c'è la gente fuori di testa. Qua la missione è andato. Sì, non li capite neanche però. Ah, vabbè, già ne parliamo su WhatsApp. Vabbè, ma cazzati, già attaccano, cazzati. No, sono fuori il gambo, non bisogna ne arrabbiarsi.